着对方。 Ricordi facili. Parini, la scuola per i zaccarlini di merda. Di merda. Come me. Con il Rolex sul polso mi sveglio la mattina, vedo il mio bel motorino, sì che mi piace. Scarabeo blu, scarabeo blu, e vado ad allagare tutto. Dopo un intervallo la scuola mi chiude, ma rimango dentro con il mio cacciavite. Porta, entro dentro di soffiato, mi fumo prima un lotto e poi vado al lavandino. Manca tanto il silicone, lo guardo da vicino e poi che cosa fai? Qui alla questura è stata allagata la scuola superiore liceo Parini. Non più nuota Parini, ho dato la ciambella ai braccioli, quota zero parini. Ho buttato la ciambella ai braccioli, ho finito il liceo, ho finito il liceo. Mi ricordo però nuota parini nuota, ho finito il liceo, nuota parini nuota, ho finito il liceo, nuota parini nuota, ho finito il liceo, nuota parini nuota.